Mi sembra che c'è un problema a trovare. È, non so, è un modo, è uno spirito che in un certo senso è un po' generale, però. No, adesso mi sto pasticciando. Perché uno potrebbe dire, vabbè, cosa sto a leggere? Basta che io capisca che bisogna avere fiducia in Dio, che Dio comunque non ci lascia, è sempre con noi, quindi cosa sto a leggere delle robe? Una volta che ho capito questo, ho finito il discorso. Secondo me così la facciamo troppo semplice, perché invece, almeno mi sembra di rendermi conto che ogni volta che leggo delle cose, noi ad esempio leggiamo tutte le mattine, leggiamo un salmo, uno, ogni volta mi sembra che mi dicano qualcosa di più, di nuovo, di un po' diverso, proprio perché la mia posizione poi cambia, e quindi non dico proprio ogni volta, ma insomma spesso mi capita di cogliere delle cose che prima non avevo colto. Ma non sono appunto delle robe specifiche, non so, che aiutano a crearsi una mentalità, non so, un modo con cui poi tu affronti le diverse situazioni. Però c'è una sorta di butti sempre dentro carbone perché il motore rimanga acceso. Per cui è vero che alcune cose dicevano, ma insomma, come a me mi capitava di sentire anche da parlando in passato, con ma insomma, basta, abbiamo capito che sì, ci dobbiamo voler bene, insomma, perché la facciamo tanto lunga? Sì, anche no, però, perché poi non ci riusciamo, perché poi abbiamo sempre bisogno di qualcosa di più e qualcosa di raffinarci un pochino, oppure di rialimentare questa cosa che una cosa è dirlo così in teoria, è una cosa poi che dire pasticciato, ma insomma ma hai preso l'idea, sì. Vabbè. Tranquilla. No, invece la seconda cosa era una roba un po' più tecnica, se vogliamo, rispetto a questa visione che avevo già un po' sentito, ma che mi lascia un po' perplessa su questa costruzione in un certo senso di questi libri nell'esperienza dell'esilio, nel post-esilio, eccetera. Dico, ma avevano una bella fantasia, però in così poco tempo a inventarsi tutta sta roba. Mi sembra più probabile che abbiano attinto anche delle tradizioni, magari orali, che però ha un deposito che poi hanno rielaborato, che poi, vabbè, hanno fatto delle costruzioni un pochino più, però tutta, anche non so, pensiamo a tutta la storia di Mosè, cioè non è che se la possono inventare così in 70 anni o quanti sono, saranno anche dei geni questi ebrei, però non lo so. Allora, due cose, appunto, reagisco alle due. Sulla prima hai detto benissimo, cioè nella misura in cui non è un insegnamento di cose da fare o da vivere, ma è una testimonianza di vite, è certo che diventa interessante tornare a rileggere, a risentire, perché le vite sono anche le nostre, sempre molto di più di quello che noi ci vediamo dentro e ci interpretiamo. Ma anche le nostre, Io do un senso al mio percorso, a quello che ho fatto, ma in realtà in tutto ciò che ho fatto, detto, sperimentato, eccetera, c'è di più, che nei diversi momenti della vita mia possono veramente entrare in risonanza nutrendo in modi diversi questa fiamma. Quindi certo che è per quello che ci torniamo. Importante è cogliere che cosa ci può essere lì dentro, non è un rileggere il codice della strada perché mi ero dimenticato alcune cose e invece così ce l'ho di nuovo vive, e di regole che devo fare, ma è rientrare in sintonia ascoltando con esperienze di vite che ritengono di aver colto in quell'aspetto qualcosa di nutriente per la propria intimità, spiritualità, vita in genere. E ho la possibilità per la mia vita di entrare in dialogo, in sintonia, venendone nutrita. Ma tu l'hai detto meglio e più mirato di cosa abbia detto io. Sulla seconda, certo. Allora, io, di nuovo, tentando di stare peraltro in tempi che speravo fossero più brevi di quelli che invece poi ho utilizzato, mi sono concentrato su un aspetto. Quei testi non vengono scritti da zero. Vengono scritti, tra l'altro c'è un aspetto interessante, vengono scritti anche componendo, raccogliendo tradizioni, magari anche già in parte scritte o solo orali o tutte e due, eccetera, che però vengono messe insieme con questa attenzione. Nel ciclo di Abramo alcuni testi sono più vecchi, tanto, alcune tradizioni sono tanto più vecchie, anche per questo in parte sono in contraddizione. Perché, questa è la cosa interessante, e rientra nella modalità di scrittura e di composizione dell'Antico Testamento. Noi, culturalmente, tendiamo a mettere giù come punti fermi. Se noi ci trovassimo in un dibattito e dovessimo raccogliere dei punti alla fine, raccoglieremmo quello su cui siamo d'accordo, su cui tutti ci troviamo. Un po' più sintetico, però quello tutti possiamo dirlo. Poi magari altre cose su cui non siamo d'accordo non ce le mettiamo dentro. Il mondo ebraico antico compone in modo diverso. Che ne so, mettiamo il caso che ci sia una tradizione che mi racconta il diluvio dicendo che è durato per un anno e un'altra tradizione che dice che è durato 40 giorni. Come le metto insieme? Noi non metteremo il tempo. Quanto è durato non lo diremmo, visto che non siamo d'accordo. Chi ha composto Genesi li ha messi tutti e due. Insomma, non è coerente. Cioè non puoi neanche dire 40 giorni o 2 mesi, vabbè più o meno. No, c'è troppa distanza perché siano coerenti. Perché li metti tutti e due? E dov'è il principio di non contraddizione? Perché li mette tutti e due? Perché si fa questa cosa, che è anche interessante come conseguenza e come retropensiero. Tu che sai che il diluvio è durato 40 giorni, perché nella tua tradizione ti dicono quello, leggi questo testo e te lo trovi. E in qualche modo te lo trovi confermato. Questo è un buon testo, perché mi dice le cose che sapevo già, che nella mia tradizione. Ah, dice anche che è durato un anno. Allora, quell'altro, secondo cui è durato un anno, ha anche diritto a dirlo perché c'è nello stesso testo. Appunto, la non contraddizione, ciao, proprio non è un problema, ma è fondamentale mantenere la possibilità che questo testo sia la casa di tanti, che appunto si mantenga la relazione anche tra i gruppi umani. È composto anche così. E quindi raccogliendo anche, certamente raccoglie testi, tradizioni, orali, scritte, lo sapere, variegate, sì. E alcune cose sono molto antiche. Magari erano ricordate così e possono anche finire in un contesto narrativo un po' diverso. Questo è possibile. La struttura sembra una struttura, almeno in esilio, qualcuno dice anche prima, qualcuno dice molto dopo, ma vabbè, troppo dopo non ha molto senso. Però ci può stare, c'erano forse anche già blocchi, può essere. Il blocco di Giacobbe poteva già essere più o meno composto, ma alcune parti forse sì. Non si trovano davanti ad una pagina vuota, si trovano con tanti pezzi materiali già dati. Decidono però di metterli insieme, di comporli. E su questo fanno un'opera che è più strutturata di tante opere religiose del loro tempo o precedente. Gilgamesh o le Numerici, come a noi sono arrivati, non funzionano così bene come Genesi. Genesi è molto più organico come racconto, è costruito meglio, forse anche perché è costruito dopo, appunto, però come struttura, come composizione. Dopodiché, dicevo, è una possibile ricostruzione, altri biblisti ne danno altre e non è detto che non abbiano ragione. In ogni caso, questo ritorno all'essenziale, visto soprattutto nella relazione anche nuova, nei contesti nuovi, questa si può giustificare, motivare, ritrovare, che diventa quello interessante anche per noi. Ci saranno nuove letture dei testi, nuovi adattamenti ai contesti, ma certo, saranno nuovi contesti. Si può già fare adesso. Stiamo già facendo. Sono ere glaciali, 40.000 anni fa, 10.000 anni sì, fa. Sì. E qualche segno l'hanno lasciato, anzi c'è tuttora, sul territorio, sulla pianura, attorno a Mondovisio, tutte tracce di quella roba lì. Dunque il diluvio c'è stato. E in futuro lasceranno cadere quelle cose lì e spiegheranno che il diluvio non è successo là, ma è successo... Ere glaciali le chiameranno, non più diluvio. No, no, e al di là di quello, dentro al diluvio, di nuovo, è interessante cosa fanno gli ebrei di quel testo. I babilonesi conoscevano anche il diluvio. È interessante il confronto con Gilgamesh. Gilgamesh viene a sapere, un po' di nascosto, da un dio col quale era in affari, sostanzialmente. Sto banalizzando, ma almeno viene a sapere del progetto degli dei sopra di distruggere il mondo, perché gli dei sopra anche lì periodicamente in Gilgamesh il chiasso degli uomini disturbava il riposo degli dei, che quindi decidono di mandare una volta il diluvio, una volta la carestia, una volta la peste, una volta, cioè fare un po' d'ordine, no? Il dio di Genesi non assomiglia a questo, eh? Il dio di Genesi decide di distruggere il mondo per la sua malvagità, non perché non lo fa riposare bene. Vabbè. Dopodiché Gilgamesh costruisce l'arca sul monte del Libano sotto i cedri perché da su non la vedano, di nascosto, salva il mondo di nascosto dagli dei. In Genesi è Dio che dice a Noè: guarda che sto per distruggere, salva il mondo. Anzi, bellissima l'immagine, che può essere ambigua come interpretazione, ma in realtà in quel contesto mi sembra abbastanza chiara. Prima di iniziare a far piovere, Dio sigilla l'arca dall'esterno, come dire, voglio essere sicuro che non entri acqua. Non soltanto vi dico che... Ma voglio essere tranquillo, che non rischiate. È un altro Dio, è un Dio che anche nel momento, i racconti di diluvio ci sono ovunque, perché tempi di alluvioni l'umanità ne ha conosciute, quindi sa, e chiunque viva a contatto diretto con la terra soprattutto, ma anche no, come dicono i nostri vecchi, il fuoco lo fermi, l'acqua no. Sanno benissimo che di fronte ad un'alluvione, se riesci scappa, perché non è che hai tante speranze di bloccarla, ed è comprensibile che l'umanità la vivesse come particolarmente angosciante. Quella di Genesi diventa, sì, vabbè, il diluvio c'è stato, però intanto Dio si è preso cura che l'umanità e la natura non perisse. È un Dio diverso. Per cui c'è poi anche tutto questo dialogo con le culture che c'erano già e che in qualche modo vengono in parte smentite, perché il primo capitolo di Genesi sembra proprio una risposta intenzionale ai miti babilonesi. Non avete capito niente su Dio e sull'uomo. Babilonia è presente adesso. Sì. Almeno io la vedo così. No, ma è Babilonia, è il mondo ellenistico, è il nostro mondo. Nessuno ci costringe a sentire musica americana, a imparare l'inglese, a prendere come modelli film americani. Semplicemente affascinano. E una volta che la cultura va in quella direzione, sei nel flusso. Cioè, non è che ti fai... Appunto... Se non sei fuori, sei tagliato fuori, ma nessuno costringe. Nessuno costringeva a parlare greco. Però... Se vuoi dialogare, eri obbligato. Ma nella Bibbia ci sono dei passi dove si dice, non so, per esempio, il re, no? Non so, Saul, che è stato punito perché non ha votato lo sterminio del popolo che aveva conquistato, no? Quindi sembra che sia la chiusura completa alle altre culture, alle altre cose, no? E allora questo può anche far pensare un po' al nostro integralismo religioso, no? L'atteggiamento di chiusura completa. E come si può allora leggere questi passi in questa ottica di cui Non dobbiamo mai dimenticarci di leggerli appunto in sguardo ampio. Io leggo in Giosuè che entrerai nel territorio e distruggerai tutte le popolazioni che ci sono. È finita la conquista e distrusse tutto, tranne queste popolazioni, fa l'elenco di quelli che rimangono. Ma c'è un mucchio. Ma allora, cosa hai fatto? Lo sterminio e passi in cui, ad esempio, prendo Saul che dice faccio un voto, oggi nessuno mangi fino alla fine così Dio ci proteggerà, che è un approccio molto religioso, ci sembra, molto rispettoso, io mi privo di una cosa e così Dio mi appoggia, e il figlio di Saul che a fine giornata dice ha sbagliato, non doveva farlo, io ho mangiato, poi sono stato meglio, poi sono riuscito a combattere meglio. Ossia, lo vediamo già dentro a ogni singolo testo, spesso addirittura ad ogni singolo capitolo, che gli approcci sono tanti e diversi. Alcuni con i quali entriamo più spontaneamente in sintonia, altri molto meno. Nessuno si impone, neanche nell'Antico Testamento, come unico. Appunto, c'è lo sterminio dei nemici. Però poi ci sono anche le popolazioni che si guadagnano, magari anche con l'inganno, una presenza nel territorio e restano dentro. L'approccio integralista c'è, anche quello, nell'Antico Testamento. E però è insieme ad altri. È come non ci dà una risposta definitiva sul come muoversi, ma è come se ci dicesse veramente le sensibilità possibili con cui vivere la relazione con Dio sono tante, diverse, con alcune di queste probabilmente faticherei ad andare d'accordo, eppure è tutta a casa loro, è tutta a casa di tutti. I passi integralisti ci sono, ma non sono gli unici. Per cui anche lì sarebbe incoerente un'impostazione puramente integralista, perché negherebbe altre parti della scrittura. Poi a tratti alcune di queste pagine, come ho detto per Giosuè, ci lasciano intendere che, insomma, un conto è l'affermazione ideale, un conto è la realtà. Lo fa anche Luca negli Atti degli Apostoli, quando dice la Chiesa viveva tutta in armonia e tutti mettevano tutto in comune e nessuno, ad esempio, Barnaba vende un campo. Scusa, se lo fanno tutti, perché mi fai un esempio? Cioè, che problema hai? E poi mi fa subito un altro esempio che non funziona, ma cioè, anche lì Luca con molta astuzia mette insieme il quadro ideale, e se qualcuno è ingenuo e non capisce e pensa che quello sia la realtà, meglio, perché comunque è il quadro ideale. e poi ti dà gli indizi per dire se poi in realtà non è che andasse proprio come avrebbe dovuto. Per cui chi è un po' più smaliziato dice, però vedi che anche loro alla fine i loro problemi ce li avevano. Sì, e questo non toglie lo sguardo positivo di Luca, che dice, sì, però quell'idealità c'era, ed era quella buona voluta da Dio e sana perché permette la diffusione del Vangelo, e le tiene insieme, che è una modalità di scrittura che era tipica della storia antichissima precedente a Luca, ma che è interessante, affascinante anche in questo dire, insomma, se tu hai malizia, cogli che effettivamente le cose non erano proprio come nell'ideale, che però ti ho detto, e se capisci che c'è quello, e nello stesso tempo questo conforta te. Perché dici, noi questi difetti li riscontriamo, allora siamo tutti sbagliati? No, c'erano anche allora, ci sono stati. Anche nella chiesa attuale ci sono molto, una molto chiusa, una molto aperta. E tutto in mezzo anche. Non è vero, è l'umanità così. E da quel punto di vista anche la Bibbia continua a restituirci un'umanità con la quale Dio entra in relazione che è molto variegata. E che va bene così. Mi è piaciuto molto quando più volte hai usato la parola intuizione. Nel corso della storia alcuni incominciano a intuire, e questo intuire che bisogna crescere nella dimensione dello spirito e nella relazione con Dio ti permette di fare dei passi avanti rispetto a delle posizioni che sono molto chiuse. E io penso al valore che ha avuto a un certo punto il discorso del dialogo interreligioso, l'intuizione che si dice, no? Dio parla a tutti, quindi non è che la tradizione cristiana debba essere l'unica via che ti permette di incontro con Dio. Dio lo incontri attraverso tutte le vie che sono presenti tra le varie tradizioni religiose, degli uomini che hanno intuito qual è la vera relazione con Dio. Ecco, questa dell'intuizione mi sembra una cosa molto importante, intuire il cammino che si deve fare nello spirito. Che è di nuovo la dinamica vitale. Sì. Noi nella nostra vita ci lanciamo nei progetti più importanti non perché li abbiamo già tutti chiari davanti. Anzi, molto spesso ci capita anche di dire, se avessi saputo prima non entravo. E dopodiché, allora vorresti uscirne? No, uscirne no. È andata bene così, però non l'avrei iniziato. E nello stesso tempo questa, certo, è il cammino che ci apre il cammino davanti, e non partiresti se non avessi questa idea che non è precisa, non è completa, non è totale, ma che in qualche modo promette. Secondo me i profeti erano persone che intuivano. Non è che Dio lavora dentro a tutte le nostre coscienze, però ognuno di noi può farsi un concetto di Dio perché è indescrivibile Dio. Però già quello che ha detto è molto importante. Da poco a tanto, ecco, intanto saranno quelli riconosciuti profeti. Però tutti quanti noi possiamo intuire, bisogna solo stare a pensare per intuire. Sì. Oppure chi ha più dono magari intuisce di più. Il mondo cristiano è convinto che tutti i cristiani partecipano di questa dimensione regale di gestione del mondo, profetica, di intuizione, sacerdotale, di dialogo tra Dio e il mondo. Tutti i cristiani, tutti. Poi certo, sensibilità diverse, profondità diverse, contesti diversi nei quali esprimersi, stimoli diversi, però sì, può essere di tutti. E poi c'è un dono di Dio, oh, certo, che è diverso, è ricevuto in modo diverso. Forse Dio non è quasi mai quello che crediamo. secondo me, perché questi doni arrivano in base a quanto vengono accettati, e per cui l'intuizione fa parte proprio sono doni di Dio le intuizioni. Poi sempre mio, no, è bello condividere tutto questo. Io volevo dire due riflessioni. Intanto, approcciarsi soprattutto al Primo Testamento è problematico, è difficile. Insomma, richiede intelligenza e competenza. Se la competenza non ce l'hai, bisogna avere l'umiltà di cercare le competenze in chi le competenze le ha. Noi in questi anni abbiamo avuto la fortuna di trovare sempre delle persone competenti che ci hanno aiutato a riflettere sulle tematiche che abbiamo. Ecco, però il testo e soprattutto il Primo Testamento, obiettivamente, ci sono dei passi straordinariamente belli. Pensate solo al Cantico dei Cantici, su cui ci dirà qualcosa poi Chiara Mori, ma anche Coerpa, sui Salmi, cioè ci sono delle immagini veramente fantastiche, ma ci sono anche delle espressioni, tu le citavi che ti lasciano di stupo, insomma, un Salmo che hai citato tu stamattina, quindi richiede molta intelligenza e molta competenza e molta assiduità, cioè tu non puoi pensare di leggere un testo e poi chiudere, no? Assiduità e leggere con altri, no? Chi è quel tale che diceva che la scrittura cresce con chi la legge? È vero, cioè tu, se tu leggi un testo da solo capirai certe cose, se tu leggi il testo in gruppo, ci sono delle persone che fanno lo stesso sforzo che stai facendo tu, il testo veramente esplode, no? Mi sembra che sia Marcion all'inizio della storia del cristianesimo che ha detto aboliamo l'Antico Testamento. Eh sì. No? Ecco. Quindi vuol dire che, e d'altra parte nella Chiesa Cattolica solo con l'ultimo concilio ci hanno detto che la legge, che la Bibbia bisognava insomma, conoscerla meglio. Prima era addirittura proibita, c'è stato un periodo della storia della Chiesa. Quindi mi rendo conto che... Però è fondamentale... leggerla con intelligenza, leggerla in modo assiduo e leggerla con altre persone, con altri uomini e donne con sensibilità diverse, e normalmente vengono fuori dei bellissimi insegnamenti quanto mai attuali, no? Quanto mai attuali. Io poi in questi anni ho riflettuto su quest'idea qui del Dio, nessuno l'ha mai visto, ci dice il Vangelo di Giovanni, no? Nessuno l'ha mai visto Dio. E quindi tutte le volte che noi dobbiamo pronunciare la parola Dio, però ci ha detto che veramente, ci ha dato il Padre. Ecco, sì, infatti ci dice Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, però c'è stato Gesù Cristo, che è la parola umanizzata, che di Dio ci ha detto alcune cose molto importanti, per cui io sono arrivato alla conclusione, fermo restando che il Primo Testamento è molto importante, è molto bello, che Dio è una parola assolutamente insufficiente. Per i cristiani, se non ci fosse Gesù Cristo, di Dio tu puoi dire quello che vuoi, no? Quindi è fondamentale capire attraverso la lettura anche qui assidua, intelligente e con anche il Nuovo Testamento, vedere Gesù Cristo che cosa ci ha detto di Dio. E tu Angelo poi sottolinei molto sempre di Dio, sottolinea sempre relazione. Probabilmente Dio è relazione, no? Questo mi piace molto. E niente, erano le due cose che volevo dire. L'ultima cosa è questa. Noi per moltissimi anni abbiamo letto tutto il Nuovo Testamento, molti libri dell'Antico Testamento, in un gruppo familiare che si riuniva in una casa, in una famiglia. Ed è stata un'esperienza molto bella. Non eravamo esperti, erano persone assolutamente normali e tra l'altro una volta al mese, no? No. Siamo andati avanti per anni, anni, anni. Io credo che per me questa esperienza è stata fondamentale per mantenere la fede, supposto che di fede ci sia ancora, però per mantenere viva l'attenzione. Quindi, tutto chiuso. Prego, Presidente. No, stavo pensando, ma vorrei lasciare spazio. No, volevo solo dire una cosa. Che a volte mi viene in mente, ma insomma, noi fossimo stati Dio, facciamo un manuale di istruzioni. Sì, sono sicuro. Tipo, fai così, fai così, fai così, facciamo la finita, semplice, no? E invece ci ritroviamo queste robe qua, no? Come tu dici, anche il primo testamento, che devi un po', ti trovi come in una foresta dove devi individuare dei sprazzi di luce qua e là in mezzo a tanti, tanti casini. Il Nuovo Testamento, che comunque anche quello c'ha un po' di... È come se veramente a Dio invece, contrariamente a come faremmo noi se fossimo Dio, interessi vivere una storia con noi. E tutta questa roba qui sa di cammino, sa di storia, sa di avventura, sa di andare non sai bene dove, ma non importa, cioè vai, non è tutto già detto. Tu dicevi adesso, non sappiamo cosa sarà della Chiesa, noi conosciamo un cristianesimo come sta, anzi conosciamo un cristianesimo come stato che già non c'è più adesso, vediamo quello che c'è adesso e non sappiamo cosa ci sarà dopo. Ma va bene così, forse proprio... Cioè abbiamo un Dio che ha inventato anche un universo tutto in espansione, che immenso, una cosa esagerata. Cos'è sta roba così che non dove si parla di miliardi di galassie, che stordisce, e ci dà l'idea di qualcuno che non sappiamo, appunto, lo possiamo definire, ma che non si lascia inquadrare, non ragiona come il vigile che ti dice va bene, adesso vai di lì, arrivi là. No, vai. D'altra parte Abramo dice va. Non ti dico neanche dove va, non va. Insomma, ci sarà una terra, sì, ma poi ci sarà, ma poi passano gli anni, non succede niente. E così, insomma, è un tipo un po' particolare questo tipo. Che già, cioè, non possiamo dire, però qualcosa ci dice, e poi vabbè, e poi ci abbiamo Gesù che insomma ci dice delle altre robe. Ecco, io volevo ancora dire una cosa invece di carattere generale. Tu hai parlato di lettura della Bibbia, che non ci si mette a leggerla così come fosse un romanzo, perché appunto poi ci si va a scontrare il primo ostacolo e tu scommettevi già su quali sono i punti dove uno si arresta. Io trovo, allora, ho fatto la revisione di tutti quei libretti degli incontri biblici fatti da Don Giorgis, e che spero nell'arco di non tanto tempo, può essere un mese, o due, saranno tutti pubblicati sul sito, e quelli sono ovviamente non sono un'enciclopedia, sono tanti spunti che più che altro sollecitano alla lettura della Bibbia e ovviamente danno tutta una serie di interpretazioni, di osservazioni, eccetera. Ecco, appunto, la cosa interessante sarà proprio di averli tutti insieme messi sul sito, in modo che chiunque possa prenderli e magari partendo da un fascicolo, perché ognuno, sono quasi tutti slegati, ce n'è qualcuno che magari fa parte di una piccola serie, due, tre, non lo so, ci sono dei rimandi da uno all'altro. Però anche solo partendo da un fascicolo c'è la possibilità di avere tutta una serie di sollecitazioni per andare a leggere, per andare a approfondire, informarsi. E direi che è una cosa molto interessante. Sì. Anche perché appunto fa quel lavoro, non l'ho detto, a un certo punto nella battuta finale veniva anche bene. Perché a noi serve questa introduzione? Questo entrarci così? Per secoli i monaci non l'hanno avute. E certo, però ci passi sopra tante ore tutti i giorni per tanti anni. Acquisisci con la familiarità quel linguaggio che potremmo acquisire con la familiarità, ma che le nostre vite in negativo, le tante cose dietro cui dobbiamo stare, ma anche in positivo, la cultura che ci permette di avere qualche guida di viaggio che ci accelera alla conoscenza, la nostra situazione è questa, abbiamo la possibilità, in parte anche l'opportunità, perché siamo quasi costretti ad avere qualche guida introduttiva di questo tipo, che non è che si sostituisca, fa la guida turistica, che ti dice guarda lì, che c'è una cosa bella che, esatto, che se no magari te la perdi o non capisci cosa vuol dire fino in fondo. E quei libretti di oggi sono bellissimi in quello, sì. Ma lui sarebbe stato il primo a dire sì, qualcuno si potrebbe anche fare più completo, diverso, eccetera, però intanto sono veramente tutti assaggi che ti fanno entrare dentro, fanno splendidamente proprio quel lavoro di cucinarti e prepararti e spiegarti quello che c'è e poi lo vedi tu, quindi fanno proprio il lavoro di esegesi, di introduzione nel testo, dandoti molto spesso la curiosità di andarlo a leggere e meditare, cioè facendo il lavoro che devono fare, per cui sono stati pensati e continuano a farlo.